Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Alla partenza dei Ferres seguì dopo pochi giorni la partenza degli Ateleta e dello Sperelli per Roma. Donna Francesca volle abbreviare la sua villeggiatura a Schifanoia, contro il solito. Andrea, dopo una breve sosta a Napoli, giunse in Roma il 24 di ottobre, una domenica, con la prima gran pioggia mattutina d'autunno. Rientrando nel suo appartamento della Casa Zuccari, nel prezioso e delizioso Buen Retiro, provò un piacere straordinario. La vecchia Jenny e Terenzio avevano preso cura delle minime particolarità. Stefan aveva preparato con alta squisitezza il comfort per il ritorno del Signore. Pioveva. Per qualche tempo egli rimase con la fronte contro i vetri della finestra, a guardare la sua Roma, la grande città diletta, che appariva in fondo cinerea e qua e là argentea, tra le rapide alternative della pioggia, spinta e respinta dal capriccio del vento, in un'atmosfera tutta egualmente grigia, ove ad intervalli si diffondeva un chiarore, subito dopo spegnendosi, come un sorridere fugace. «Che ora è?» chiese egli a Stefan volgendosi. «Erano le 9 circa». Egli si sentiva un po' stanco. Pensò di mettersi a dormire. Poi anche pensò di non veder nessuno nella giornata e di passare la sera a casa in raccoglimento. Ricominciava per lui la vita di città, la vita mondana. Egli voleva, prima di riprendere quel vecchio esercizio, darsi a una piccola meditazione, a una piccola preparazione, stabilire una regola, discutere se come medesimo qual dovesse essere la condotta futura. Ordinò a Stefan: «Se viene qualcuno a chiedere di me, ditegli che non sono ancora tornato. Fatemi preparare la colazione per le 3, leggerissima, e il pranzo per le 9. Niente altro». Si addormentò quasi subito. Alle 2 il domestico lo svegliò e gli annunziò che prima di mezzogiorno era venuto il duca di Grimiti, avendo saputo dalla marchesa d'Ateleta il ritorno. «Ebbene?» «Il signor duca ha lasciato detto che sarebbe tornato prima di sera». «Piove ancora?» «Aprite interamente gli scuri». Si sollevò un poco sui guanciali. Accese una sigaretta e si mise a seguire il corso dei pensieri, con una specie di voluttà. Un benessere insolito gli occupava le membra, e lo spirito era in una felice disposizione. Egli mesceva le sue fantasie alle onde del fumo, in quella luce temperata, ove i colori e le forme prendevano una vaghezza più blanda. Spontaneamente, i pensieri di Andrea non risalivano verso i giorni scorsi, ma andavano all'avvenire. Egli avrebbe riveduto Donna Maria fra 2, fra 3 mesi, chissà, forse anche assai prima, ed avrebbe allora riallacciato quell'amore che chiudeva per lui tante oscure promesse e tante segrete attrazioni. Sarebbe stato il vero secondo amore, con la profondità e la dolcezza e la stessa di questo duo amore. Donna Maria Ferres pareva essere, per un uomo di intelletto, l'amante ideale. Certo, segnando nel libro dello Shelley i 2 versi dolenti, ella aveva dovuto in cuor suo ripetere altre parole. «Perché non potrò mai essere tua». «Perché mai?» Con troppa angoscia di passione quel giorno, nel bosco di Vicomile, ella aveva risposto: «Vi amo, vi amo, vi amo». Egli udiva ancora la voce di lei, l'indimenticabile voce. Ed Elena Muti gli entrò nei pensieri. Si avvicinò all'altra, si confuse con l'altra evocata da quella voce, e a poco gli volse i pensieri ad immagini di voluttà. Il letto dove egli riposava e tutte le cose intorno, testimoni e complici delle brezze antiche, a poco gli andavano suggerendo immagini di voluttà. Curiosamente, nella sua immaginazione, egli cominciò a svestire la senese, ad involgerla del suo desiderio, a darle attitudini di abbandono, a vedersela fra le braccia, a goderla. Il possesso materiale di quella donna così casta e così pura gli parve il più alto, il più nuovo, il più raro godimento a cui potesse egli giungere. E quella stanza gli parve il luogo più degno ad accogliere quel godimento, perché avrebbe reso più acuto il singolar sapore di profanazione e di sacrilegio che il segreto atto, secondo lui, doveva avere. La stanza era religiosa come una cappella. V'erano riunite quasi tutte le stoffe ecclesiastiche da lui possedute e quasi tutti gli arazzi di soggetto sacro. Stephen batté all'uscio dicendo: «Mi permetto di avvertire il signor Conte che son già le 3». Andrea si levò e passò nella camera ottagonale per abbigliarsi. Tutto ciò che c'era in lui, più fatuo, più vano, più mondano, si risvegliava all'improvviso. Pareva che le cose circostanti avessero virtù di suscitare in lui l'uomo di un tempo. La curiosità, l'elasticità, l'ubiquità spirituali riapparivano. Egli già incominciava ad aver bisogno di espandersi, di rivedere amici, di rivedere amiche, di godere. Si accorse di aver molto appetito e ordinò al domestico di servirgli la colazione. «Quando tornerà il duca di Grimiti?» disse egli al domestico. «Lo farete entrare». Si udiva lo strepito delle carrozze sulla piazza della Trinità dei Monti. Pareva che dopo la pioggia si fosse diffusa su Roma tutta la luminosa biondezza dell'ottobre romano. «Aprite le imposte», disse al domestico, e lo strepito divenne più forte. Entrò l'aria tiepida, le tende ondeggiarono appena. «Divina Roma», egli pensò guardando il cielo fra le alte tende, e una curiosità irresistibile lo trasse alla finestra. Tutte le cose prendevano un'apparenza più ricca a quella ricca luce autunnale. «Divina Roma». Egli non sapeva saziarsi dello spettacolo. Guardò passare una torma di chierici rossi di sotto alla chiesa, poi la carrozza di un prelato nera con 2 cavalli neri dalle code prolisse, poi altre carrozze scoperte che portavano signori e bimbi. Riconobbe la principessa di Ferentino con Barbarella Viti. Un soffio dell'antica vita gli passò sullo spirito e lo turbò. Egli diede un'agitazione di desideri indeterminati. Il domestico annunziò: «Il signor duca con altri 2 signori». Ed entrarono il duca di Grimiti, Ludovico Barbarisi e Giulio Musellaro, mentre Andrea si levava per farsi loro incontro. Tutti e 3, l'uno dopo l'altro, l'abbracciarono. Egli offerse il tè, i liquori. La conversazione si fece vivissima. Ruggero Grimiti e il Barbarisi davano le notizie di Roma. Facevano la piccola cronaca. Il fumo saliva nell'aria, tingendosi ai raggi quasi orizzontali del sole. L'aroma del tè si mesceva all'odore del tabacco. «Che fai tu stasera?» chiese ad Andrea il Barbarisi. «Veramente non so». «Vieni allora con noi. Per le 8 abbiamo un pranzo da Idonei, al Teatro Nazionale. Inauguriamo il nuovo restaurant. Anzi, il cabinet particulier del nuovo restaurant. Venite con noi». «Vieni con noi», sollecitò Giulio Musellaro. «Siamo noi 3», aggiunse il duca, «con Giulia Ricci, con la Silva e con Maria Fortuna». «Ah, una bellissima idea! Vieni con Clara Green!» «Bellissima idea!» ripeté Ludovico. «E dove trovo io Clara Green?» «All'albergo d'Europa, qui accanto, in piazza di Spagna». «Un tuo biglietto la renderà felice. Sì, certo che lascerà qualunque impegno». Ad Andrea piacque la proposta. «Sarà meglio», disse, «che io vada a farle una visita. È probabile che ella sia rientrata. Non ti pare, Ruggero? Vestiti, vestiti e usciamo subito». Uscirono. Clara Green era rientrata da poco all'albergo. Accolse Andrea con una gioia infantile. Ella certo avrebbe preferito di pranzare sola con lui, ma accettò l'invito senza esitare. si mise a raccontargli una quantità di sue storie sentimentali, gli fece una quantità di domande sentimentali, gli giurò che ella non aveva mai potuto dimenticarlo, parlava tenendo le mani di lui nelle sue. Ella era ancora giovine, con quel suo profilo puro e diritto, coronato dai capelli biondi divisi sulla fronte in un'acconciatura bassa, pareva una bellezza greca. Aveva una certa incipriatura estetica, lasciatale dall'amor del poeta pittore Adolphus Jekyll. Ella aveva posato per una Sibilla palmifera e per una Madonna del Giglio. Aveva anche posato una volta innanzi ad Andrea per uno studio di testa da servire all'acquaforte d'Elisabetta nella novella del Boccaccio. Era dunque nobilitata dall'arte, ma in fondo non possedeva alcuna qualità spirituale. Anzi, a lungo andare la rendeva un po' stucchevole quel certo sentimentalismo esaltato che non di rado si incontra nelle donne di piacere inglesi e che fa uno strano contrasto con le depravazioni della loro lascivia. Dopo un'ora Andrea la lasciò e risalì al palazzo Zuccari. Le stelle vi scintillavano in un cielo umido e terso. Da una finestra con le tendine rosse illuminate veniva il suono di un pianoforte. Egli si sentì d'improvviso pesare il cuore. Un ricordo di Donna Maria lo riempì d'improvviso e gli suscitò, in confuso, un senso di rammarico e quasi di pentimento. Che faceva ella in quell'ora? Pensava, soffriva. Gli parve che qualche cosa dal fondo del suo cuore si fosse involato ed egli non sapeva bene qual fosse, ma ne era afflitto, come d'una perdita irrimediabile. Ripensò al proposito suo della mattina. Una sera in solitudine, nella casa dove ella forse un giorno sarebbe venuta. Una sera malinconica ma dolce, in compagnia dei ricordi e dei sogni, in compagnia dello spirito di lei. Una sera di meditazione e di raccoglimento. In verità, il proposito non poteva meglio essere tenuto. Egli stava per recarsi a un pranzo di amici e di donne, e senza dubbio avrebbe passato la notte con Clara Green. Il pentimento gli fu così insoffribile, gli diede tale tortura che gli si avvigliò con insolita prontezza, saltò nel coupé e si fece condurre all'albergo. Trovò Clara già pronta. Quando entrarono dai Donei, gli altri sei commensali erano già presenti. Andrea Sperelli salutò la compagnia e, portando per mano Clara Green, disse: «Ecce Miss Clara Green, Ancilla Domini, Sibilla Palmifera, Candida Puella, ora pro nobis», risposero in coro il Musellaro, il Barbarisi e il Grimiti. Le donne risero, ma senza capire. Clara sorrise. E formando un bagnato bianco, semplice, corto, con una scollatura a punta sul petto e sulle spalle, con un nastro verde mare sull'omero sinistro, con due smeraldi agli orecchi, disinvolta sotto il triplice esame di Giulia Ricci, di Bebè Silva e di Maria Fortuna. Il Musellaro e il Grimiti la conoscevano. Il Barbarisi le fu presentato. Andrea diceva: «Mercedes Silva, nominata Bebè, Cica però guapa. Maria Fortuna, la bella talismano, che è una vera fortuna pubblica per questa Roma che ha la fortuna di possederla». Quindi, volgendosi al Barbarisi: «Fateci voi l'onore di presentarci a quella dama che, se non mi inganno, è la divina Giulia Farnese». «No, Arici», interruppe Giulia. «Chiedo perdono, ma per crederlo ho bisogno di raccogliere tutta la mia buona fede e di consultare il pintoricchio nella sala quinta». Egli diceva queste sciocchezze senza ridere, dilettandosi ad empir di stupefazione o di irritazione la dolce ignoranza di quelle oche belle. La Silva aveva acceso una sigaretta e inghiottiva le ostriche mentre il fumo le usciva dalle narici. Ella somigliava a un collegiale senza sesso, un piccolo ermafrodito vizioso, pallida, magra, con gli occhi avvivati dalla febbre e dal carbone, con la bocca troppo rossa, con i capelli corti, lanosi, un po' ricci, che le coprivano la testa a guisa di un caschetto da astrakhan. Teneva incastrata nell'occhiaia sinistra una lente rotonda. Portava un alto solino inamidato, la cravatta bianca, il panciotto aperto, una giacca nera di taglio maschile, una gardenia all'occhiello, affettando le maniere di un dandy, parlando con voce rauca. E attirava, tentava per quella impronta di vizio, di depravazione, di mostruosità che era nel suo aspetto, nelle sue attitudini, nelle sue parole. Sal e pimienta. Maria Fortuna invece aveva il tipo un po' bovino. Possedeva una carne bianca, di una bianchezza opaca e profonda, una di quelle carni instancabili e insaziabili su cui Ercole avrebbe potuto compiere la sua impresa d'amore, la sua tredicesima fatica, senza sentirsi chieder tregua. Giulia Ricci piaceva molto allo Sperelli per quel suo color dorato sul quale si aprivano due lunghi occhi di velluto. Il naso un po' carnoso e le labbra tumide, fresche, sanguigne, dure, le formavano nel basso del viso un'espressione d'aperta lascivia, resa ancor più vivace dall'irrequietudine della lingua. I canini, essendo troppo forti, le sollevavano gli angoli della bocca. E come gli angoli così sollevati si facevano aridi, o le davano forse un lieve fastidio, ella ad ogni tratto con la punta della lingua li inumidiva e si vedeva ad ogni tratto scorrere per la chiostra dei denti quella punta come la foglia bagnata di una rosa grassa per una fila di piccole mandorle nude. La conversazione andava accendendosi nei vini, nei vecchi vini di Francia, fluidi e ardenti. Nel mezzo della tavola un vaso di cristallo azzurro conteneva un gran mazzo di crisantemi gialli, bianchi, violacei, su cui si posavano gli occhi malinconici di Clara Green. «Clara», chiese Ruggero Grimiti, «siete triste? A che pensate?» «A ma chimère», rispose ella sorridendo, e chiuse il sospiro nel cerchio di un bicchiere colmo di champagne. Quel vino chiaro e brillante, che ha sulle donne una virtù così pronta e così strana, già incominciava ad eccitare variamente i cervelli e le matrici di quelle quattro etere ineguali, a risvegliare e a stimolare in loro il piccolo demone isterico e a farlo correre per tutti i loro nervi, propagando la follia. Bebè Silva gittava motti orribili, ridendo di un riso soffocato e convulso. Maria Fortuna schiacciava i fondant col gomito nudo e li offeriva per niente, premendo poi sulla bocca di Ruggero il gomito dolcificato. Giulia Ricci, oppressa dai madrigali dello Sperelli, si turava gli orecchi con le belle mani, abbandonandosi alla spalliera, e la sua bocca, in quell'atto, attirava i morsi come un frutto sugoso. «Hai mangiato mai?» diceva il Barbarisi allo Sperelli, «certe confetture di Costantinopoli, morbide come una pasta, fatte di bergamotto, di fiori d'arancio e di rose, che profumano l'alito per tutta la vita. La bocca di Giulia è una confettura orientale». «Ti prego, Ludovico», diceva lo Sperelli, «lasciamela provare. Conquistami Clara Green e cedimi Giulia per una settimana. Clara anche ha un sapore originale, un giulebbe di violette di Parma, fra due biscotti di picchi fritti alla vaniglia». «Attenti, signori!» gridò Bebè Silva prendendo un fondant. Ella aveva visto la piacevolezza di Maria Fortuna e aveva fatto la scommessa ginnica di mangiarsi un fondant sul suo proprio gomito, tirandoselo fin presso alle labbra. Per eseguire il gioco si scoprì il braccio, un braccio magro e pallido, sparso di lanugine scura. Appiccicò il fondant all'osso acuto e, stringendosi con la mano sinistra l'antebraccio destro e facendo forza, riuscì a vincere la scommessa con l'abilità di un clown, tra gli applausi. «E questo è niente!» disse ella ricoprendosi la nudità spettrale. «Cica, però guapa!» «È vero, Musellaro?» E accese la decima sigaretta. A intervalli veniva dall'orchestra del teatro un'onda di suoni nell'aria calda e faceva canterellare Bebè. Clara Green sfogliava nel suo piatto i crisantemi in silenzio, poiché il vin bianco e leggero le si era convertito nelle vene in un languor triste. Come Andrea Sperelli si curava poco di lei e si dava ad una pazza allegria di atti e di parole, meravigliando perfino i suoi compagni di piacere, ella disse con una voce supplichevole tra il coro delle altre voci: «Love me tonight, Andrew». E da allora in poi, quasi ad intervalli misurati, levando di sul piatto lo sguardo ceruleo, si mise a supplicare languidamente: «Love me tonight, Andrew». «Oh, che lagno!» fece Maria Fortuna. «Ma che significa? Si sente male?» Bebè Silva fumava. Beveva bicchierini di vieux cognac e diceva cose enormi, con una vivacità artificiale. Ma aveva, a quando, momenti di stanchezza, di prostrazione stranissimi, nei quali pareva che qualche cosa le cadesse dal volto e che nella sua figura sfrontata e oscena entrasse non so qual piccola figura triste, miserevole, malata, pensierosa, più vecchia, della vecchiezza di una vertuccia tisica che si ritragga in fondo alla sua gabbia a tossire dopo aver fatto ridere la gente. Erano momenti fuggevoli. Ella si riscoteva per bere un altro sorso o per dire un'altra enormità. E Clara Green a ripetere «Love me tonight, Andrew». Così, d'un balzo, Andrea Sperelli si rituffò nel piacere.